Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Via libera agli incentivi per chi trasporta merci in modo combinato via mare e su strada. Durante l'estate è stato reso noto infatti il regolamento per richiedere i contributi stanziati dal governo per il ferro bonus, 20 milioni di euro che potranno essere richiesti entro il 2 ottobre dalle imprese che effettuano questo tipo di trasporto intermodale. Il ferro bonus è parte importante di una politica che vuole favorire la cosiddetta comodalità, cioè l'utilizzo di sistemi di trasporto differenti e fra loro integrati per ottenere spostamenti più veloci, efficienti e soprattutto di minore impatto ambientale. I contributi saranno erogati per almeno 2 anni e rientrano in un programma più ampio di rilancio del trasporto merci su ferro. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Si chiama Ferro Bonus e, come si intuisce in qualche modo anche dal suo nome, si tratta di un incentivo che dovrebbe servire a spostare una quota di traffico merci dalla strada alla rotaia. Durante l'estate è stato pubblicato il regolamento per richiedere questi contributi, 20 milioni di euro, la data ultima per queste domande è il 2 ottobre, allora cerchiamo di capire un po' come sta andando in compagnia del nostro ospite che è Francesco Benevolo, direttore operativo di RAM, e cioè la società pubblica che sta gestendo questo tipo di contributi. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Ecco, Benevolo, innanzitutto ci può spiegare che cos'è il ferro bonus, che cosa consiste questo incentivo? L'obiettivo dell'incentivo cosiddetto ferro bonus è quello di spostare traffico delle merci dalla strada al trasporto ferroviario. Come? Attraverso un meccanismo di incentivazione che viene offerto a chi commissiona treni completi per il trasporto intermodale o trasbordato nei tratti, diciamo, italiani, quindi da e verso porti e nodi logistici italiani. Ecco, che cosa significa, treni completi? Treni completi, ci sono proprio delle definizioni nel decreto che è stato pubblicato in Gazzetta il 16 agosto scorso, quindi sono dei treni acquistati in tutta la loro capacità di prestazione da un unico cliente. C'è in Italia una capacità di trasportare questo quantitativo così importante di merci su ferrovia? Certamente, questo nuovo ferro bonus fa seguito alla precedente edizione del 2011, in cui per soltanto un anno il Ministero erogò un incentivo analogo, sempre chiamato ferro bonus, per l'incentivazione di traffico trasbordato o intermodale proprio su treni completi su percorsi italiani in alternativa alla strada. L'esito fu molto positivo, certamente un anno solo di incentivazione non era sufficiente a promuovere tutta l'incentivazione che noi vogliamo con questo meccanismo e che il ministro Del Rio in particolare ha voluto attraverso quella che lui chiama la strada del ferro. Questo meccanismo di ferro bonus dura infatti 2 anni, almeno 2 anni, 2017 e 2018, con una dotazione finanziaria di 20 milioni per il 2017 e di 40 milioni per il 2018. Ecco Benevolo, chi può accedere a questi contributi? Allora, possono accedere ai contributi tutte le imprese che hanno sede nell'ambito dello spazio economico europeo, costituite in forma di capitali, che commissionino questi treni completi, quindi imprese di produzione che commissionano treni completi, imprese di autotrasporto che commissionano treni completi e anche i cosiddetti MTO, cioè gli operatori logistici multimodali che acquistano treni per poi rivendere ai propri clienti, prendendosi però la responsabilità in proprio del servizio acquistato. Quali sono le aspettative rispetto a questo provvedimento? Quale sarà la reale quota di traffico merci che riusciremo a spostare grazie a questi incentivi? Ma il ministro Del Rio, con la cosiddetta, come ho detto, con la cosiddetta cura del ferro, ha ritenuto, e noi d'accordo con lui, che l'insieme di una serie di misure, lo sconto sui pedaggi, anche questo ferro bonus e molte altre, certamente contribuiranno a spostare questo traffico intermodale sulla ferrovia rispetto alla strada. Ricordiamoci che l'Europa ci impone al 2030 uno spostamento significativo delle merci su reti intermodali di ferro e di acqua e che noi al momento siamo su parametri piuttosto lontani dagli obiettivi europei. Quindi l'insieme delle misure messe in atto dal governo, e in particolare questa, prevedono uno spostamento significativo di treni, di traffico delle merci dalla strada al trasporto intermodale e trasbordato su ferro. Quindi l'obiettivo, l'attesa è molto alta. In realtà già abbiamo primi segnali di mercato che questa, anche solo l'effetto annuncio di questa misura, ha rimesso in moto il meccanismo del trasporto ferroviario. Ecco, lei è il direttore operativo di RAM, che è la società pubblica che sta gestendo queste pratiche di contributi. La scadenza, l'abbiamo ricordato prima, è il 2 ottobre, quindi abbiamo già qualche settimana di operatività alle spalle. Come sta andando? Allora, molti sono i quesiti, ovviamente il decreto è uscito in Gazzetta metà agosto e c'è tempo fino al 2 ottobre per inviare esclusivamente via posta elettronica certificata le domande al Ministero, e i quesiti ovviamente sono molti. Essendoci molti quesiti attendiamo quindi anche molte domande. Nei successivi 45 giorni il Ministero, tramite la RAM, che è soggetto gestore, comunicherà l'ammissibilità delle domande. Come funziona poi in sintesi questo incentivo? Ogni anno, dal 31 agosto fino al 31 ottobre, le imprese richiedenti rendiconteranno i treni effettuati nell'anno. Verranno fatte delle verifiche e sulla base dei treni chilometro rendicontati si percepirà un contributo fino a un massimo di 2,50 euro per treno chilometro riconosciuto. Gli operatori multimodali che accedono al meccanismo dovranno poi riversare sulla propria clientela almeno il 50% del contributo ricevuto. Ecco, quindi ecco, ci sarà un effetto riverbero anche sull'utilizzatore finale, che dovrebbe essere particolarmente interessante, quindi. Assolutamente sì, perché il caricatore lo prenderà direttamente, invece coloro che utilizzano operatori logistici certamente avranno almeno il 50% del contributo che verrà a loro carico, il resto lo prenderà l'MTO, ovviamente, perché si prende anche responsabilità, diciamo, di assumere questi servizi ferroviari. Quindi un meccanismo piuttosto semplice, ovviamente con delle regole messe nel decreto abbastanza stringenti per quanto riguarda dichiarazioni, certificazioni, contratti. Ci saranno dei controlli importanti che la RAM farà attraverso il sistema informativo delle ferrovie per verificare l'effettivo utilizzo del treno da parte delle imprese beneficiarie. Quindi c'è un sistema già rodato nel 2011 che contiamo che nella sua snellezza, ma allo stesso tempo serietà e rigidità, potrà contribuire a incrementare quel sistema intermodale che con tanti provvedimenti il Ministro Delrio sta mettendo in campo proprio per perseguire gli obiettivi europei, per avere un sistema della mobilità più in linea con le nostre esigenze ambientali. Ecco, a proposito di intermodalità e di ambiente, visto che abbiamo ancora un minuto circa di trasmissione, facciamo anche una battuta su un altro provvedimento simile al ferro bonus, anche da un punto di vista del nome, perché parliamo del mare bonus, che è un provvedimento che dovrebbe trasferire quote di traffico merci dalla strada appunto al mare. A che punto è invece questo provvedimento? Dunque, il mare bonus ha avuto che l'incentivo che viene dato all'utilizzo delle autostrade del mare, quindi l'intermodalità marittima invece di quella stradale, ha avuto delle problematiche non indifferenti a livello europeo per avere l'autorizzazione, perché purtroppo la normativa europea è un po' arretrata, la normativa di base europea è del 2004, siamo nel 2017, quindi vi potete rendere conto di come sia difficile adattarla alle esigenze moderne. Attualmente è stato firmato il decreto interministeriale e in registrazione, contiamo che venga pubblicato a stretto giro, sicuramente, diciamo, entro le prossime settimane. È un ulteriore segnale che viene dato, perché anche lì chi caricherà la merce sulle navi invece di andare per strada avrà un incentivo, quindi un ulteriore segnale di quella cura dell'acqua che, unitamente alla cura del ferro, il Ministro Delrio ha voluto promuovere proprio per